Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti. Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com. I Love Italy, Radio Miami International, la WRMI, eccoci tornati in diretta, vi saluto calorosamente dalle nostre antenne di Okeechobee in Florida, al microfono Andy Mangiarotti. La trasmissione, come avete ascoltato dal jingle iniziale, si chiama I Love Italy. 15 minuti in lingua italiana, in questa trasmissione che per il 2020 subirà qualche modifica. Sto pensando di trasformare il programma in un programma talk dove parliamo dell'Italia, questo anche per favorire la condivisione tramite podcast, perché se magari trasmettiamo delle canzoni protette ai diritti d'autore non vorrei insomma incappare in qualche problema con la SIAE, quindi ho deciso per adesso, in apertura per questo gennaio 2020, di fare un programma talk in lingua italiana, 15 minuti insomma per mantenere viva la nostra lingua italiana. Vi ricordo che la trasmissione che stai sentendo è trasmessa in via sperimentale su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49 e su kHz 9955 pari a metri 31. La radio che ci ospita sulle onde corte è la WRMI, Radio Miami International, con sede a Okeechobee in Florida. In apertura vi ricordo tutti i vostri riferimenti, se magari volete mandarci rapporti di ricezione o semplicemente saluti, lo potete fare attraverso la mia mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, per i vostri rapporti di ricezione, saluti, commenti, considerazioni. È anche possibile scrivere direttamente in formato cartaceo, se amate scrivere come sottoscritto, direttamente alla WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33155, Stati Uniti d'America. Potete scrivere direttamente anche a Radio Miami. Vi ricordo anche il mio sito di riferimento www.andreamangiarotti.com e il sito di riferimento di Radio Miami, la WRMI.net. Lì è possibile anche inviare il vostro rapporto di ricezione in formato telematico. Iniziamo quest'oggi salutando alcuni amici, anzi un amico che ci ha inviato un rapporto di ricezione dal Venezuela, scusate, mi sono un attimo impappinato, Venezuela, Jorge Luis, che ci scrive: ciao Andrea Mangiarotti, mi fa piacere scriverti, ho ascoltato il tuo programma qualche settimana fa in lingua italiana via WRMI, segnale regolare con qualche disturbo per lo più atmosferico e un leggero fading. Ti invio il rapporto di ricezione sperando che tu me lo possa confermare attraverso una cartolina QSL. Poi mi chiede anche se è possibile magari ricevere delle carte, degli adesivi dei programmi di Radio Miami, nonché la QSL personalizzata di I Love Italy. Noi manderemo la cartolina personalizzata per l'appunto di I Love Italy. E ora leggiamo il suo rapporto di ricezione, che è il seguente: caro amico, ti invio il rapporto di ricezione novembre 24 2019, frequenza 9955 kHz, data d'ascolto 13.45 UTC sino alle ore 14 UTC per un simpo 34333. Noi invieremo sicuramente la cartolina QSL all'amico Jorge Luis dal Venezuela. Ora parliamo invece di vacanze. Solitamente molti di voi, anche all'inizio di gennaio, febbraio, marzo, iniziano a fare le cosiddette ferie all'estero. E il New York Times ha pubblicato recentemente l'elenco delle 52 destinazioni turistiche da visitare prima che sia appunto preso l'assalto da tutti i vari turisti. Le località italiane, rispettivamente al 7° posto, al 37° e al 51° posto, sono delle mete particolari che tra poco vi svelerò, soprattutto perché ecosostenibili, esotiche e ricche d'arte. Vediamo però questa classifica stilata da New York Times. Al primo posto c'è la capitale Washington, per rimarcare la sua importanza politica nell'anno delle elezioni. Poi ci sono paradisi come la Groenlandia da scoprire e il Tagikistan. Ma un po' a sorpresa, insieme alla Sicilia, che non può mancare in questa classifica del New York Times, dove molti americani amano insomma trascorrere le proprie vacanze, anche perché sono originari proprio della Sicilia. Pensate un po', il New York Times, come preannunciato precedentemente, tra il 52° posto da visitare per il 2020 c'è niente di meno che il Molise e Urbino. Negli ultimi anni il flusso dei turisti statunitensi in Italia è aumentato anche a causa di attentati terroristici in città come Parigi, e da sempre presa appunto d'assalto tra virgolette dai turisti americani. Nel 2018, secondo le stime Istat, gli arrivi degli Stati Uniti in Italia sono stati circa 5,7 milioni, per un aumento rispetto al 2017 di 15,7%, mentre le presenze hanno raggiunto i 14,5 milioni più il 14,9%. Secondo le stime di Banca Italia, nel 2018 gli statunitensi in Italia hanno speso oltre 5 miliardi di euro. Facile capire come una menzione così autorevole sia significativa per le località italiane. Nella graduatoria del New York Times, appunto, la Sicilia è consigliata perché, secondo l'autore, c'è qualcosa di importante che si sta muovendo nell'isola: una nuova ondata di turismo verde che aiuta non soltanto a promuovere la regione, ma anche a salvaguardare il suo ambiente unico. E viene naturalmente citato il vino con l'apertura dell'itinerario Treni del Vino e del Gusto, grazie anche alla collaborazione tra le FS e lo Slow Food, insieme a numerose iniziative per arrivare a creare delle vere e proprie strutture e tour ecosostenibili. Quindi la Sicilia è molto molto apprezzata dal popolo statunitense. Tra le segnalazioni di New York Times c'è anche Lima e Copenaghen. Ecco, il Molise è la regione più bistrattata d'Italia, che si prende una rivincita non da poco sul fatto che neanche gli italiani la conoscono, scherza il giornalista americano, che poi ne parla come uno degli angoli più spettacolari della penisola, con la costa di Termoli, i siti archeologici in provincia di Campobasso, e consiglia veramente di girare queste terre con il trenino. Poi l'articolo continua, per l'appunto, citando anche la Firenze, scontatissima, come anche Roma del resto, ma la nuova meta, secondo il New York Times, è Urbino, il posto migliore. per celebrare degnamente i 500 anni della morte di Raffaello. È un riconoscimento importante per le Marche, duramente provate dal terremoto del 2016. Insieme all'Umbria, la regione sta cercando di sollevarsi e di riproporsi come meta turistica, grazie anche appunto anche alle celebrazioni di Raffaello. Le 52 località scelte dal New York Times sono una miscela interessante per farsi un'idea dal punto di vista statunitense sul turismo in Italia. Quindi bello questo articolo che il quotidiano americano New York Times ha voluto dedicare alle mete turistiche più amate dagli amici statunitensi, e visto che la nostra radio sede ad Okeechobee e anche a Miami, quindi in Florida, abbiamo al telefono l'amico Matteo da Piacenza. Matteo, che lui più volte è stato a Miami, gira spesso il mondo, quest'anno andrà in Brasile. Però vorrei sentire, Matteo, dalla tua voce, innanzitutto ciao, ci puoi descrivere a grandi linee la città di Miami? Grazie, dai. Ma allora, io sono stato a Miami nel 2014, quindi già passato qualche anno. La particolarità è che arrivavo da New York e ho trovato un mondo completamente diverso che non mi aspettavo, nel senso che New York è una vita molto stressante, con ritmi abbastanza tesi, tutti di corsa, mentre a Miami è più un clima del sud, nel senso che tra abitudini, costumi, usi sono completamente diversi da New York. Quindi in che senso diversi? E trovi moltissimi street food che New York ormai non ho più trovato. Cioè, sembra New York degli anni 70, anni 80, e quindi però moltissimi sudamericani, quindi anche la parlata è completamente diversa. Siccome per un italiano è molto più facile andare a New York, perché è un inglese semplicissimo, l'americano è molto semplice. Però invece se tu vai a Miami sembra quasi di parlare lo spagnolo, è una cosa incredibile. Quindi è una realtà multietnica, soprattutto spagnola. Esatto. E italiana c'è qualcosa di italiana? Italiana trovi tantissimo a New York, invece a Miami molto meno. Molto meno. Sì. Trovi locali italiani che comunque poi tu con internet li trovi senza problemi. Ho i ragazzi che hanno aperto ristoranti. No. Sì, è molto multietnica. Ma nel vero senso della parola. Vabbè, c'è il mare, quindi è fantastico. L'ho trovata abbastanza tranquilla. Bene, noi siamo andati in un periodo che, ecco, lo più apprezzati questo febbraio, quindi come la gente, così c'è un grandissimo turismo perché finite le feste natalizie, poi so che comunque le feste universitarie cominciano verso marzo-aprile, quindi avevamo un periodo abbastanza morto. La gente è tranquillissima, non ho trovato nessun tipo di problema. Siamo stati spesso a Ocean Drive, che è la zona principale, la via principale dove ci sono tutti i ristoranti, mentre dall'altra parte c'è proprio la spiaggia che è molto bella, è enorme, ma molto molto tranquilla. Quindi senza problemi, la consiglio assolutamente. Sì. Perché il nostro amico Matteo, lui gira molto, soprattutto presto andrà anche in Brasile, ha girato veramente tanto, e quindi ci ha fatto piacere ospitarlo qua su Radio Miami. Se vuoi fare un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci ascoltano in lingua italiana. Ragazzi, beati voi che siete là al caldo, noi qui in questo momento siamo al freddo relativo, che non c'è freddissimo, però c'è sempre più freddo che qua che lì, e vi saluto dall'Italia. Grazie Teo, avevamo via telefono l'amico Matteo che ci ha raccontato la sua esperienza in un bel viaggio turistico a Miami in Florida. Se andate negli Stati Uniti, mi raccomando, lasciate la mancia, perché là è proprio una prerogativa lasciare la mancia nei locali pubblici, è anche una cosa carina e giusta. Solo in Italia non si fa, in Italia non si usa, però se andate negli Stati Uniti mi raccomando la mancia. Sempre a proposito degli Stati Uniti, mio cugino che abita nel Texas e a Houston, anzi ne approfitto per salutarlo, ciao Carlo, è un ingegnere che lavora negli Stati Uniti, e anche mia cugina e mio cugino Armando, mia cugina Marisa, mi dicevano che quando vai negli Stati Uniti, loro spesso vanno in Texas, la gente è veramente cordiale, perché vedono una persona nuova e subito la salutano, buongiorno, così come sta, ha bisogno qualcosa. Quindi il popolo americano sono veramente molto molto cordiali, gentili, accoglienti, diciamo così, accoglienti. Forse noi italiani dobbiamo prendere esempio da loro. Siamo arrivati al termine per quanto concerne I Love Italy di quest'oggi. Io vi rinnovo l'appuntamento a prossimamente, sempre qua sulla WRMI. Io vi aspetto quindi per un'altra trasmissione, sempre in lingua italiana. Da Andy Mangiarotti è tutto. Vi auguro un buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International.